Radio 24 Reportage. A un secolo da Caporetto, cronaca di un'altra storia, di Dario Ricci. Ottobre 1917. Sono le due di notte quando 2000 cannoni degli eserciti tedesco ed austro-ungarico cominciano a riversare la propria potenza di fuoco contro le linee italiane. Siamo lungo il fronte italo-asburgico della Grande Guerra, nei pressi di una minuscola cittadina allora chiamata Karfreit e oggi che si trova in territorio sloveno, Kobarid. Per noi italiani, invece, da quel giorno e per sempre, quella cittadina diventerà un luogo dell'anima, uno stato mentale. Caporetto. Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che stava vegliando. Iniziava così quella che sarebbe passata alla storia come la disfatta per antonomasia, sinonimo di deplorevole resa, frutto di inaffidabilità, indecisione, incapacità organizzativa. Ma fu davvero così? Davvero l'esercito italiano subì una disfatta tale e quasi senza combattere, sorpreso e stordito dal blitz del nemico? La storiografia più recente, senza mettere in discussione l'esito di quel confronto, è però tornata a interrogare le fonti, i racconti dei soldati, le cronache del tempo, gli archivi, ridisegnando i contorni di quel dramma, definendone un nuovo significato. Perché fu possibile il blitz austro-ungarico? Paolo Gaspari, autore de Le bugie di Caporetto, la fine della memoria dannata, descrive così il capolavoro logistico dei nostri avversari. È stato possibile proprio perché loro hanno realizzato quella che dal punto di vista tecnico si chiama sorpresa strategica. Cioè sono riusciti attraverso vie interne a portare sul fronte 150.000 uomini e questi cannoni, 1.000 colpi. Per ogni cannone è una montagna, sono centinaia e centinaia di treni che hanno dovuto portare questi proiettili. Poi hanno dovuto piazzarli di nascosto, mascherarli, quindi un lavoro logistico immenso. Fin da subito Caporetto rappresenta quindi un unicum militare e, viene da dire, filosofico per il nostro esercito. Gli italiani, dovete tener conto, che non avevano mai combattuto una vera battaglia difensiva. Loro per 2 anni e mezzo erano andati sempre all'attacco dal basso verso l'alto, quindi in inferiorità diciamo di luogo e anche molte volte anche inferiorità di fuoco. Per cui non essendo addestrati a una battaglia difensiva né gli ufficiali né i soldati, non riuscivano a far fronte a questa irruenza. In una battaglia difensiva, solo per darvi un'idea, la prima cosa che si fa è di interrare tutti i cavi telefonici. Se tu non interri i cavi telefonici, il primo colpo di cannone te li spezza, il secondo ti rispezzi un altro punto e siccome si tratta di montagne alte sui 1.500-2.000 metri, devi mandare il portaordini, ma il portaordini che deve scendere giù a valle e poi ritorna su ci mette 4 ore a fare i 2 dislivelli e in 4 ore fa tempo a concludersi una battaglia. Mentre dormivo nella mia tenda sognavo d'essere con la mia bella e invece ero di sentinella a far la guardia alla straniera. Alla bravura altrui si sommarono gli errori dei nostri comandi, come ricorda Claudio Razzeto, storico e giornalista, autore di Caporetto, una storia diversa, edizioni del Capricorno. Non si compresero tra loro i generali e Badoglio prese la decisione terribile di mantenere per sé l'ordine di far aprire il fuoco le artiglierie. Poi si ritirò a dormire. Quando i tedeschi e gli austriaci iniziarono il bombardamento, le linee telefoniche saltarono, Badoglio rimase isolato, non poté dare l'ordine e i cannoni non spararono. Questo fu il vero dramma, perché l'artiglieria che gli austriaci si aspettavano, i tedeschi si aspettavano molto attiva sul fronte, non sparò praticamente quasi un colpo e i tedeschi e gli austriaci marciarono direttamente attraverso la piana che c'è sull'Isonzo di fronte a Caporetto, sfondando e scendendo a valle fino a Cividale e lì iniziò la ritirata. Da Caporetto al Piave è una gran processione. Ma davvero a Caporetto vi fu una ritirata passiva e inerme da parte di un esercito sfiduciato e demoralizzato? Gaspari, che ha riletto fra gli altri i memoriali di quasi 16.000 ufficiali fatti prigionieri durante quei giorni, nega con fermezza e argomentazioni. Gli italiani combatterono come avevano combattuto prima, quindi molto valorosi, e come combatteranno dopo, molto valorosi. Non c'è nessuna caduta di morale, un esercito non può andare in crisi morale come hanno tentato di fare alcuni cosiddetti storici e anche contemporanei. Un esercito di 2 milioni di persone non va in crisi morale. E gli italiani combatterono, solo che obiettivamente erano inferiori come potenza di fuoco, inferiori come mobilità, perché non erano abituati a fare una battaglia di movimento, ed erano anche meno comandati dei tedeschi, che invece erano comandati da comandanti molto, molto bravi, molto esperti, che erano abituati alla guerra di movimento. Almeno 3 furono le battaglie all'ultimo sangue combattute dal nostro esercito nei 15 giorni di ripiegamento verso il Piave, concorda Razzetto. Certamente nella confusione di una ritirata accade di tutto, ma il ripiegamento, perché tale fu, in realtà fu ordinato e disciplinato, caratterizzato anche da grandi gesti di eroismo di molti reparti che per fermare il nemico combatterono fino all'ultimo uomo. Basta citare il Genova e il Novara Cavalleria, che andarono alla carica con sciabola e lancia contro le mitragliatrici austriache, il corpo d'armata speciale sul Tagliamento, che fece saltare i ponti, e sul Monte Ragugna combatté eroicamente. Consideriamo che molti reparti ebbero l'onore delle armi da parte del nemico. Finita la ritirata di Caporetto, sul Grappa e sul Piave, l'ultima linea che tra l'altro il generale Cadorna aveva già approntato e che era già pronta a cogliere le truppe come estrema difesa, ci fu una resistenza che per un esercito allo sbrago sarebbe stata totalmente inspiegabile. Da Caporetto a Piave, passando per San Vito. Eppure i generali scaricarono le colpe della disfatta sui soldati, accuse figlie di un paese, l'Italia, che a Caporetto non era ancora divenuto patria comune, chiarisce ancora Gaspari. È la dimensione di una classe dirigente italiana che attraverso Cadorna dice: questi soldati che noi abbiamo portato in guerra non sono affidabili perché non hanno il senso di patria, non hanno il senso dell'orgoglio, eccetera, eccetera, sono stati loro a cedere. In realtà sono stati i generali a cedere, vuol dire che era un rapporto della classe dirigente nei confronti delle masse popolari, che avevano appena avuto il suffragio universale, perché il suffragio universale fatto da Giolitti nel 12 non era stato ancora, diciamo, introiettato dalle masse popolari, e quindi non si sentivano ancora cittadini, erano sudditi. E la frantumata eredità di quei giorni sopravvive tuttavia ancora oggi. Noi italiani abbiamo sviluppato anche da parte di Caporetto questo senso di nostra inadeguatezza alle cose, di questa nostra scarsa affidabilità. Quindi è praticamente uno stato mentale Caporetto, che noi oggi ci portiamo dietro in maniera proprio evidente, lo vediamo anche in ogni atto contemporaneo dell'Italia di oggi. Non c'è la presa delle proprie responsabilità e non c'è soprattutto l'orgoglio, la consapevolezza che si sono superate delle grandi prove, e la Prima Guerra Mondiale fu una grande prova che il popolo italiano superò coeso, cioè borghesia e classi popolari unite di tutte le regioni d'Italia. Al mito rovesciato di Caporetto contribuirà anche il cono d'ombra della storia che seguì, evidenzia Razzetto. La leggenda di Caporetto è nata nel secondo dopoguerra, quando si è voluto liquidare tutta la storia militare italiana come una grande sconfitta, il che non è. Quando gli eroi, gli arditi, i combattenti sono stati bollati con una certa ideologia come di destra per aver contribuito anche dopo alla causa del fascismo, sono state dimenticate tutte le gesta dei nostri soldati, e questa secondo me è una grande ingiustizia. Senza piangere o pregare andremo via, senza fiori né fanfare andremo via. Quell'Italia, che tale ancora non era, a Caporetto, lo diventerà nell'anno successivo lungo le trincee del Monte Grappa e del Piave. Grazie anche all'esempio di quei soldati che proprio a Caporetto orgogliosamente combatterono, malgrado tutto, ricorda ancora Claudio Razzetto. la scritta sulla casa del Piave o il Piave tutti accoppati non era propaganda, erano i soldati che non volevano assolutamente cedere più neanche un metro di terreno. Questo mostrò una coesione, un senso di unità nazionale che gli italiani, e questo lo sappiamo bene, ritrovano spesso davanti al pericolo incombente, nelle grandi tragedie. Se questa coesione, questo senso di unità nazionale fosse riscoperto e trasmesso alle nuove generazioni di italiani, beh, forse ci renderebbe anche più pronti alle grandi prove che la storia inesorabilmente ci metterà davanti anche nel futuro. Insomma, Caporetto potrebbe essere un messaggio per il futuro, il fatto che noi, quando vogliamo, insieme siamo forti. Dovremmo trovarla più spesso, questa unità nazionale. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.